candir, amor senza la mandato strettamente per mio bene. Questo uomo coloso nel villaggio della scelta sua voglio far salvo. Dottore, perdonate! E perché possediate segreti portentosi? Sorprendetevi! La mia saccoccia è di Pandora il vaso! Avreste voi per caso la bevanda amorosa della regina? Isotta! Ah? Che cosa? Voglio dire lo stupendo e i circa dell'amore. Ah, sì, sì, capisco, intendo, io ne so che è il cuore. È davvero? Sì, se ne fa gran consumo in questa età. Ah, fortuna, e ne vendete ogni giorno. Un tantino l'autorità.